Non c'entra il passare del tempo per sentirsi a volte un po' strani. Basta solo un sentimento per portarci spesso lontano. Forse è solo un sogno che il mattino ha spento nel bagliore dell'aurora. Ricordi di un amore nel rivederla ancora, bruciare nel sentirla più vicino. Quello che sembra normale a volte non lascia dormire, il bello spesso fa male, fa sognare poi anche soffrire. Forse l'ansia di sentirla più vicino, ferma adesso il tempo come allora. Poi nel sogno adesso si colora l'attimo trovato quel mattino. Sognare ancora stretto al mio cuscino, averla tra le braccia ancora un'ora. Chiederò al tempo, fermati un momento, lascia che il mio sogno si colora. L'amore è assenza di tempo, va e torna e riporta lontano. Ho vissuto lo stesso momento di quando la tenevo per mano. Come un fiume finisce il suo cammino, si ritrova unendosi nel mare. Così noi, finiti col sognare, scopriamo nuovi amori nel destino. Forse è colpa del tempo, quelle voci e suoni un po' strani, sono dentro e si odono a stento, quei ricordi sembra lontani. Torna ancora il sogno del mattino, spento dal bagliore dell'aurora. Forse l'ansia di rivederla ancora svanisce nel sentirla più vicino. Ricordare ancora, stretto al mio cuscino, io l'ho avuta almeno per un'ora. Solo in un momento, datomi dal tempo, quel sogno non l'ho perso nell'aurora.